Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Silva Team, estratti vegetali dal 1854, di Andrea Ferro. Quella di oggi è una storia che inizia tanti anni fa nelle valli del Monregalese, ricche di boschi cedui di castagno. Siamo in Piemonte, provincia di Cuneo. È una storia di prodotti naturali e di intraprendenza, tracciata sull'onda lunga di un'antica tradizione. Inizia nel primo stabilimento di Corsaglia di Frabosa. È la trama di imprese e di lavoro della famiglia Battaglia e di Silva Team, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di estratti vegetali a partire da diverse materie prime di origine naturale, come castagno, chebrasso, tara, mimosa, mirabolano e gambiera. A raccontarcela è Michele Battaglia, vicepresidente dell'azienda e responsabile dell'area Americhe. Allora noi partiamo 166 anni fa ormai nelle valli del Monregalese, nel sud del Piemonte, con l'estrazione, le prime estrazioni di tannino di castagno. L'estratto di castagno si usava all'epoca per conciare le pelli principalmente e per tinture. Il tannino è sempre stato il leitmotiv della nostra azienda, l'estratto di piante in genere. E i primi anni, come dicevo, si basava sulla concia delle pelli, applicazioni per concia delle pelli, applicazione per tinture. A partire dal 1854, la storia di Silva Team è un'avventura che si dipana nel tempo e nello spazio. Presto il Monregalese e il Piemonte si rivelano troppo piccoli per abbracciare le prospettive di sviluppo dell'azienda. Già nel corso del primo mezzo secolo di attività, gli stabilimenti diventeranno via via 34, situati in varie regioni italiane. Ci sono stati momenti in cui ci sono passaggi storici dalla concia, che era una prima dal settore delle tinture, che poi è sparito, e siamo dovuti passare al settore della concia, principalmente. Poi ci sono anche stati i soci che sono cambiati negli anni. Avevamo dei soci che erano negli anni 60, abbiamo riunito un po' tutte le fabbriche di produttrici di castagno in tutta Italia per fare un impianto modello molto più efficiente a San Michele Mondovì nel 63 partito, integrato con la produzione sia di pannelli che di tannino, ed era l'impianto più grande al mondo all'epoca. Con 12.000 tonnellate. Poi sempre quegli anni lì, negli anni 55, un po' perché comunque era un'essenza molto importante che i nostri soci dell'epoca producevano in Argentina già dall'inizio del Novecento, siamo entrati soci anche in Argentina. La conquista dell'Argentina da parte di Silva Team e della famiglia Battaglia significa quindi un passaggio fondamentale per il consolidamento e il potenziamento dell'azienda, avviata verso scenari internazionali. Un passaggio che vale pure alla stregua di un modello produttivo, organizzativo e sociale, come ci racconta ancora il vicepresidente Michele Battaglia. Cosa interessante è che all'inizio, nei primi del Novecento, loro portavano il legno dal nord dell'Argentina in barca fino a Genova, dove c'era l'estrazione del tannino nelle fabbriche varie che c'erano lì in zona, incluso Garessio, e poi soltanto nell'anno 25, comunque stiamo parlando del 1925, il nord dell'Argentina era ancora un posto sperduto e da pionieri, ci stava arrivando il treno e davano concessioni, che all'epoca sono state una concessione di 120.000 ettari, per praticamente colonizzare la zona. Tanto è vero che la fabbrica aveva la propria moneta, era praticamente chiudeva la porta del paese alla sera, era come un paese fabbrica tutto insieme, dove c'era dalla sanità, quando non c'era ancora a livello statale, la dava l'azienda e così via. Per cui siamo stati abbastanza pionieri da sempre come filosofia, sia in andare in vari posti, come in Perù, come in Argentina, dicevo, sia anche con applicazioni. Siamo abbastanza, noi nel mondo dei tennis siamo sempre stati i pionieri delle nuove applicazioni. Ampliare, differenziare, divaricare le attività. Silva Team intraprende ulteriori percorsi. Già a partire dagli anni 70 vengono realizzati stabilimenti per la produzione di pannelli di fibra, carta, energia elettrica da biomasse, resine tanniche e derivati furanici. E un'attenzione particolare è rivolta al comparto della chimica fine. Un processo che, con il passare degli anni, acquista ulteriori accelerazioni attraverso significativi investimenti in ricerca e sviluppo. Diciamo da fine del secolo scorso in avanti, abbiamo con la nostra generazione in particolare, mio fratello, io, un altro mio cugino, abbiamo visto la necessità di ampliare i nostri mercati su mercati che crescessero di più, iniziare a conoscere molto di più dei nostri prodotti. Quindi abbiamo investito in ricerca pesantemente da quel periodo lì. Dal fine degli anni 90, quando siamo entrati noi in azienda, io avevo 22 anni quando sono entrato, nel 96, di lì in avanti abbiamo iniziato a fare ricerca e adesso siamo leader nel settore della salute animale con estratti di tannino che rimpiazzano gli antibiotici, ad esempio, piuttosto che nel settore dell'agricoltura, nel settore della mineria, dove si rimpiazzano il cianuro, del settore dei pozzi petroliferi, dove si usano di spardente, nelle resine naturali, dove rimpiazziamo anche lì di nuovo resine fenolico formaldeide. Cerchiamo noi come azienda di cercare sempre applicazioni sostenibili, che è un po' la base anche filosofia, avendo 166 anni di storia, uno se non ha una filosofia sostenibile difficilmente si sostiene per tanti anni. Quindi produzioni sempre più all'insegna della sostenibilità, nel segno di un'economia che sappia puntare alla circolarità, punto cardinale imprescindibile sul quale tracciare la rotta per il futuro, come spiega ancora Michele Battaglia, vicepresidente di Silva Team, azienda che oggi fattura 150 milioni con circa 800 dipendenti. Come sempre con questa filosofia, una cosa che noi cerchiamo anche di utilizzare in modo circolare tutte le nostre risorse. Per esempio, partiamo dalla gestione dei boschi, delle foreste, anche nel Chaco argentino, dove le foreste sono foreste naturali che abbiamo messo tecnologie per gestirle in modo sostenibile, quindi mantenendo la biodiversità e aumentando la produzione dei boschi stessi. Dalle produzioni, dove abbiamo produzioni integrate, dove non solo facciamo l'estrazione in modo efficiente, ma poi con gli scarti produciamo energia elettrica, che stiamo finendo adesso un impianto in Argentina a 10 megawatt da dare in rete, oltre a usare per il nostro autoconsumo, o fare pellets o fibre o altri usi del legno esausto, nel caso del legno, nel caso della pectina, dopo estrarre la pectina con i residui facciamo ad esempio adesso un impianto nuovo per fare fibre. La pectina è un idrocolloide che si usa per stabilizzare i cibi, un gelificante, si usa negli yogurt, si usa nelle marmellate, si usa nei succhi di frutta per tenerli stabili, nei dairy in generale. Le nonne usavano le mele per fare marmellata, perché le mele sono ricche di pectina, così come sono le bucce degli agrumi. Noi estraiamo dalle bucce degli agrumi. Una storia di impresa e di lavoro lunga più di un secolo e mezzo e destinata a protrarsi ancora nel tempo, trova linfa e stimoli dal passaggio generazionale, dal perpetuarsi di tradizioni e voglia di fare. Una trasmissione, un cortocircuito di saperi e di attitudini all'interno della stessa famiglia che diventano un valore aggiunto garantito nel tempo. Penso che sia un fattore decisivo il fattore familiare della nostra azienda, in quanto ci permette di essere molto flessibili, veloci, reagire anche nei momenti di crisi. La nostra azienda in questi anni qui ha avuto momenti floridi e momenti di crisi. D'altra parte, in tanti anni i mercati si evolvono e uno deve cercare di cambiare. questo momento la famiglia è sempre stato un pilastro su cui basarci e su cui fare forza per andare avanti e trovare sempre nuove soluzioni. Penso che le aziende familiari italiane, in genere al mondo, sono sempre un vantaggio e una forza quando riescono a essere coesi e a portare innovazione, amore verso l'azienda. Siamo molto fiduciosi del nostro futuro, tant'è vero che stiamo ampliando gli impianti sia in Italia che in Argentina che in Perù, perché i nostri settori dove siamo entrati stanno crescendo bene e anche quelli tradizionali stiamo riuscendo a rinnovarli, dargli una innovazione. Ad esempio le pelli, che è un settore un po' così, un po' in crisi se vogliamo, anche lì stiamo cercando di dare un po' di una rinfrescata a tutto il settore con un progetto che si chiama EcoTan, dove le pelli non sono più viste soltanto come un materiale bello, ma anche un materiale salutare, un materiale in qualche modo superiore rispetto a una plastica. E non soltanto dal punto di vista dell'aspetto, delle performance tecniche, ma anche proprio dal punto di vista della bioattività, chiamiamola per dire così. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.